I remember a thing that happened in the field hospital that made me very sad. Ricordo un evento che è accaduto nell'ospedale da campo e che mi ha molto addolorato. Un bambino era morto soffocato dai gas. All'epoca ancora non riuscivamo a comprendere che si poteva morire per aver respirato lacrimogeni. Questo ragazzino avrà avuto 12 anni, era insieme ad un amico che ora non smetteva di piangere. Erano molto poveri e quando gli chiedemmo se avevano una famiglia non riuscimmo a rintracciare nessun parente. Così coprimmo il suo corpo con una coperta e smettemmo addirittura di curare gli altri feriti. Radunati intorno a lui, in piedi, non potemmo far altro che rimanere a guardare. Stand and just look. My name is Yasser. Mi chiamo Yasser, lavoro in ospedale, sono un chirurgo. Sono palestinese e da poco ho ottenuto un documento di identità egiziano. Partecipo agli eventi della rivoluzione dal 28 gennaio 2011. A man and his wife and their son. Un uomo, la moglie e il loro figlio mi vengono incontro. L'uomo è ferito, ha una profonda lesione alla testa. Il candelotto di un lacrimogeno lo aveva colpito spaccandogli il cranio. Quando lo accompagno in ospedale, vedo un agente in borghese che scrive i nomi e i documenti di chi aveva preso parte alle manifestazioni. In quel momento ho deciso che non avrei portato più nessun ferito in ospedale. Arriviamo in piazza Tahrir durante gli scontri. I cecchini appostati sui tetti sparano sui manifestanti. Alcune persone mi avvertono che i feriti sono radunati nella moschea, chiedendomi di andare a visitarli. La cosa veramente impressionante era il numero di morti. La sala emergenza era addirittura troppo piccola per contenerli. Così abbiamo dovuto accatastare i corpi uno sull'altro. Was over each other. The army forces and the policemen. Esercito e polizia iniziano ad attaccare gli ospedali da campo ed a lanciare lacrimogeni dentro la moschea. E noi, per non soffocare, siamo costretti ad abbandonarla. Decidiamo così di portar via i medicinali e di allestire un ospedale da campo in strada, vicino alla prima linea, in modo da consentire alle motoambulanze di arrivare più in fretta. Abbiamo sistemato delle coperte per terra, come se fossero dei letti. On the street and make it like a bed. The central security forces were using. Le forze di sicurezza utilizzavano sia lacrimogeni che gas nervini, alcune dei quali contenenti fosforo. La pelle di chi era stato esposto direttamente a questi gas rimaneva ustionata. Si tratta di gas illegali, roba che viene utilizzata in guerra. Come se non bastasse, i cecchini hanno anche usato pallottole vere. Solo nel primo giorno degli scontri, all'ospedale da campo abbiamo ricevuto 146 persone con ferite agli occhi, di cui circa il 30% dei casi ad entrambi gli occhi. La cosa più bella nell'ospedale da campo era vedere i ragazzi feriti alzarsi di nuovo per tornare a combattere. Alcuni di loro li ho curati anche 5 volte nello stesso giorno. Mentre alcuni manifestanti correvano verso di noi inseguiti dai militari, i miei colleghi hanno alzato le mani, tentando di dire ai soldati che eravamo medici, che c'erano dei feriti con noi. È stato incredibile. I soldati non si sono fatti scrupolo di picchiarci, di colpire anche i feriti che erano a terra e di arrestarli. Sono scappato. Non ho mai corso così tanto in vita mia. Like I never run in my life. I met a child 11 years old. A ridosso della prima linea ho incontrato un ragazzino di 11 anni. Aveva un casco in testa. L'ho tirato via e gli ho chiesto perché stesse lì. Vieni a vedere cosa ci stanno facendo, mi dice, e mi porta in giro per la linea del fuoco. Ed io mi accorgo che lo conoscevano tutti. Ho pensato che se lo avessi lasciato lì, probabilmente sarebbe stato ferito, o peggio ancora, ucciso. Gli ho detto, vieni con me, ho un camice, indossalo, e levati questo elmetto. Così gli ho insegnato a fasciare le ferite. È diventato un mio collega. Lui si è attaccato un adesivo sul petto, dove ha scritto assistente dottore. And wrote, doctor assistant.